Friuli nel mondo. Vita nelle Malghe, 24esima trasmissione dedicata agli emigrati. Per la festa di Sant'Antonio, 13 giugno, le 350 malghe del Friuli sono tutte caricate. Ciariala mont, si dice in friulano. 50.000 capi di bestiame, bovini e ovini, popolano i pascoli tra la fascia boscosa e la nuda roccia. Lungo i canali, è il nome delle valli, attraverso i villaggi, su per le mulattiere, passano ininterrottamente mandre e greggi, pastori e donne, cariche di masserizie e di provviste nella gerla. Nel cuore delle ragazze, dell'Is Poemis, accorse a salutarli un sospiro che suona conforto all'attesa. Tait alegris, fantacinis, che tremes estan in mont. A Madone di Settembre, i pastors paruestri cont. Saluti dunque agli accompagnatori e agli animali, con una punta d'invidia per chi sale ad incontrare le nubi che sfiorano i prati screziati di ranuncoli e di genziane. Nostalgia comunque di notti stellate nel silenzio dell'alto. Che musica è mai questa? Non certo di rustici campanacci di ferro. Sono autentiche campane di bronzo, fuse in Svizzera con le 7 note musicali. Ora sì, salgono i campanacci, i carnici sampoins. Molte donne s'accompagnano alle loro mucche, con le quali conversano quasi fossero creature. S'accompagnano sino alla malga per assicurarsi che vi siano bene sistemate. Sinonimo di provvidenza è la vaccherella per ogni famiglia povera della montagna. L'arrivo alla casera è sempre festoso. Le donne sfaccendano nell'annerita cucina in funzione anche di caseificio per accogliere tanta gente nell'imminenza della veglia notturna. Arde la fiamma sul basso focolare. Gli uomini badano alle stalle, alle loses, agli attrezzi per il formaggio, per il burro, per la ricotta, mentre le bestie disperse all'intorno gustano avidamente l'erba profumata di menta. Dolce la sera sui monti. Un pastorello, un vigelar, ci attenta lo zufolo, l'occhio al gregge per la prima volta affidato alle sue cure. Il sole ha quasi compiuto il suo giro nel cielo. All'orizzonte le vette si incendiano, si spengono. Le ultime mucche entrano nel chiuso per la mungitura. Due voci con spontaneo accordo ricordano un'elegia crepuscolare. Oh, All'improvviso una di esse, forse la più dolente, rivolge il pensiero al suo bene lontano. Scende la notte. Nella casera, odorosa di polenta, c'è per tutti il latte tiepido, il cacio se l'è portato ognuno da casa, e per tutti una panca al riflesso del fuoco. Qui la fede e la legge di un antico popolo di pastori. Alle preghiere immancabili s'accorda il crepitio della fiamma. Santa Trinitas unus Deus miserere nobis. Santa Maria ora pro nobis. Santa Virgine pro nobis. Santa Virgo Virginum ora pro nobis. Mater Christi ora pro nobis. In chiusa un pater per i santi protettori, per i defunti, per i lontani, palanestra gli che iepa il monte, e per i vicini, compreso il primo che morirà della compagnia. Secute nostre, vedi, nostre, le nostre,